Buongiorno, sono Alfredo Gatti, sono il managing partner di Next Value. Benvenuti a questa giornata. Sono molto felice di questa occasione perché credo che abbiamo l'opportunità oggi di lavorare su un tema che è un po' nell'agenda, nell'ordine del giorno di tante aziende. Noi in questo mese e nei mesi precedenti abbiamo parlato con molte aziende finali e devo dire l'interesse intorno al cloud computing è molto, molto elevato. Lo vedremo anche dai risultati della ricerca che vi illustrerò tra poco. Ringrazio le aziende che con noi hanno organizzato questa giornata, cioè EMC, Google, IBM, Microsoft, Oracle, Tantami e VMware. Voglio entrare nel merito dell'argomento, partendo magari prendendolo un po' da quelli che sono dei trend, dei macro trend che tutti noi osserviamo sia dal lato offerta che dal lato domanda. Io credo che oggi siamo venuti un po' al capolinea di un problema molto, molto grosso, che è quello del software, in particolare del suo costo, inteso come costo complessivo, e della sua usabilità. Negli anni, fine anni 90-2000, il costo per utente di una normale suite applicativa si aggirava sui $1,000 mese, costo di ownership, tutto compreso i servizi, gli aggregati, eccetera. Questo costo è sì diminuito durante questi ultimi 8-9 anni, dove hanno inciso sicuramente delle economie di scala fatte dai proponenti l'offerta, ma il vero cambio di modello, il vero cambio di paradigma sta avvenendo oggi e questo è legato alle applicazioni di cloud computing. Chi offre applicazioni software in modalità cloud computing è in grado di fare delle economie di scala sul costo che sono assolutamente impensabili, incredibili, sono degli ordini di grandezza. Siamo arrivati ai $7 mese per utente e qualcuno dice 0,7 dollari mese. Faccio queste considerazioni per richiamare alcuni punti che poi serviranno nella discussione di tutta la giornata. Presentando l'utilizzo del software in termini di numero di utenti, ma anche di frequenza di accesso all'applicazione, vedete c'è ormai una spanning di tante cose che ormai arrivano a applicazioni che non potrebbero essere erogate nel modo tradizionale quando vedono 100 milioni di utenti tutti insieme accedervi una volta al minuto almeno. Questa è la grande logica, la trasformazione che sta dietro queste cose. Questo dovrebbe far riflettere sia chi sta nelle aziende come responsabile dei sistemi informativi e chi si occupa dell'industria IT. Il problema della ricerca e sviluppo. Io l'altro giorno ero a una interessantissima tavola rotonda. La conclusione che si tirava in questa tavola rotonda erano due. La prima è anche quando l'IT sta nel perimetro suo, quindi opera all'interno del suo perimetro per elaborare una trasformazione che riguarda l'infrastruttura, pone sempre un problema al business, comunque, anche se la virtualizzazione è un fatto interno della struttura IT, in ogni caso il processo di decisione e tutto quanto ne consegue ha poi riflessi importanti sulla struttura dell'azienda. Scusate, se prendiamo